all'ombra del grande ciliegio, sulla collina davanti al mare, il vento che ti accarezza piano, la sinfonia del cinguettio che ti circonda, l'immensità dei miei pensieri si sta perdendo nel cielo azzurro, c'è una nuvola che passando ha disegnato un delfino che si tuffa. Io non chiedo niente dalla vita più di quello che mi dà, se un giorno è nero certo un altro meglio arriverà, e ho imparato molto dalla vita, anche il male che ti fa, ma ogni volta mi ha forgiato e a testa alta sono ripartito. All'ombra del grande ciliegio, sulla collina davanti al mare, il profumo della primavera, l'immensità di un grande amore infinito, sentirsi bene senza motivo, vedere il mondo come mai prima, capire che quello che ha intorno ha cose belle da scoprire e meraviglia. Chiedo niente dalla vita più di quello che mi dà, se un giorno è nero certo un altro meglio arriverà, e ho imparato molto dalla vita, anche il male che ti fa, ma ogni volta mi ha forgiato e a testa alta sono ripartito. All'ombra del grande ciliegio, sulla collina davanti al mare, ho scritto queste poche parole per fermare nei ricordi un'emozione. Ora il vento e i gabbiani hanno risvegliato la mia attenzione, il sogno è cosa dentro è cambiato. Io non chiedo niente dalla vita più di quello che mi dà, se un giorno è nero certo un altro meglio arriverà, e ho imparato molto dalla vita, anche il male che ti fa, e a testa alta sono ripartito.